Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La tecnologia può offrire strumenti a supporto delle decisioni politiche? È quanto si è cercato di dimostrare con e-Policy, progetto europeo che ha portato allo sviluppo di una complessa piattaforma informatica per supportare la pianificazione regionale nel settore dell'energia. Siamo in un campo di studio estremamente affascinante dove le scienze informatiche si mescolano all'economia, alle scienze ambientali e sociali, il tutto condito da abbondanti dosi di statistica. È l'inizio di un progetto molto ambizioso, infatti l'obiettivo di fondo è una specie di modello informatico della società che permetta di prevederne lo sviluppo futuro in funzione delle scelte politiche. Naturalmente c'è un pizzico di velleità in questa pretesa di prevedere il futuro, ma siamo senz'altro di fronte a strumenti di governance che non si erano mai visti prima e quindi di grande interesse. Ebbene, il progetto e-Policy è stato sviluppato da un team internazionale guidato dall'Università di Bologna e in particolare dalla professoressa Michela Milano. Buonasera professoressa Milano. Buonasera, buonasera. Allora, che cos'è questo e-Policy? Allora, e-Policy è un progetto europeo che ha avuto come obiettivo, diciamo, finale quello di creare una vera e propria piattaforma informatica che sia in grado di aiutare i politici a prendere decisioni. In particolare, diciamo, i politici devono basare le proprie decisioni su un numero di dati sempre crescente, mai come oggi ne abbiamo a disposizione un numero sempre più difficile da considerare, quindi i nostri strumenti informatici cercano di aiutarli a prendere delle decisioni che siano il più possibile informate e basate sui dati. Ecco, e vi siete concentrati in particolare in questo primo step sul tema dell'energia. Qual è l'output quindi al momento di questa vostra piattaforma? Sì, diciamo, in particolare abbiamo considerato l'energia perché è un settore assolutamente fondamentale, strategico per la società e diciamo l'output finale del sistema sostanzialmente è quello di definire diciamo vari mix di incentivi che permettono di supportare la produzione per esempio di energia da fonti rinnovabili. Quindi diciamo vari scenari permettono al politico di decidere quali strutture incentivanti mettere in campo da erogare ai cittadini perché appunto questi cittadini vadano poi nella direzione di adottare tecnologie energetiche da fonti rinnovabili efficientamento energetico. Ecco, qui la cosa interessante però è che in questa elaborazione molto complessa si tiene conto non soltanto per esempio di aspetti di carattere puramente economico, no? Assolutamente, sì, il pianificatore deve sostanzialmente prendere in considerazione scelte alternative, quindi per esempio quello che può essere il mix di energia, quindi scelte strategiche, quindi mix di energia tra diciamo da qui a un orizzonte temporale di anni, di qualche anno, sì. E deve valutarne gli impatti ambientali e ovviamente gli impatti economici e anche gli impatti sociali, di accettabilità sociale, che per quanto riguarda ovviamente il settore dell'energia sono piuttosto importanti e significativi. Quindi a fronte di questi possibili scenari incentivanti diversi ci saranno anche diverse ricadute ambientali, per esempio sulle acque piuttosto che sull'atmosfera, piuttosto che sulla copertura a verde, no, delle foreste. Esattamente. Abbiamo usato gli strumenti che si usano attualmente per fare la pianificazione ambientale la valutazione ambientale dei piani e dei programmi politici, quindi diciamo tutti gli impatti che si possono prevedere e che si possono stimare evidentemente con una certa dose di approssimazione, ma insomma più possibile diciamo in modo fedele, abbiamo cercato di stimare questi effetti sia dal punto di vista ambientale che ovviamente dal punto di vista economico, ma il lato diciamo importante è anche che stiamo cercando di considerare anche il punto di vista sociale, cioè come le persone diciamo in qualche modo reagiranno a questi incentivi. Infatti, e qui veniamo diciamo forse alla componente veramente più innovativa che avete sviluppato, che è questa sorta di simulatore sociale, una specie appunto di simulazione degli abitanti della regione Emilia-Romagna. Allora, questa cosa non riusciamo a spiegarla adesso, la spieghiamo nella puntata di domani perché è veramente qualcosa di affascinante, però le vorrei chiedere se questi strumenti non introducano anche in modo un po' surrettizio, per esempio, un certo tipo di idea dell'economia. Questi strumenti non sono neutri, in realtà riflettono il pensiero di chi li ha programmati. Sì, evidentemente diciamo il nostro tentativo è quello di creare dei modelli che siano il più possibile oggettivi e soprattutto basati sui dati. La cosa importante è proprio questa, cioè che noi cerchiamo di ricavare i modelli su cui prendiamo decisione a partire dall'evidenza. Cioè lei dice è comunque meglio di quello che si fa, questo mi sta rispondendo. Noi lo speriamo, insomma. Grazie dottoressa Milano, ci risentiamo domani. Grazie a lei, arrivederci. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.